Messina, Sicilia, 22esimo quartiere, 2009. Seguo l'istinto, non farti fregare, segui l'istinto. Il mio istinto mi diceva non fidarti più di loro, pensa solo al tuo lavoro che il resto viene da sé. Ora so che il mio istinto c'ha ragione a trarre questa conclusione, in fondo so pure il perché. Yo, io parassiti non ne voglio più, no, perché da me vogliono solo il mare, no. Già con limpidezza come il cielo blu, come la mia crew, il resto poco vale. Anni che porto sempre la mia mano, la mia guancia, ignori il senso di minacce preso a torto in faccia. E ci ricasco, cancello dalla mente tutto il resto, difetto di essere troppo buono e troppo onesto, per gli altri un fesso, e qui si annidano questi avvoltoi, per nulla ben pensante e non immerso in cazzi suoi. Io tipo umile, son ben visibile, non mi nascondo mai, contrario a chi pieno di colpe immerso in guai. Ma adesso basta, questa non è sfiducia ma prudenza, verso chi non tiene molta intelligenza, ma la potenza nei miei confronti, ma non dei loro conti. Doppio giochisti che ti calano dei pacchi. Io ho aperto gli occhi, adesso serve e penso, sto lontano da quei tinti loschi. Percorro la mia via in agiatezza, la musica che spezza tutte le barricate, dalla noia alla tristezza. Il mio istinto mi diceva non fidarti più di loro, pensa solo al tuo lavoro che il resto viene da sé. Ora so che il mio istinto c'ha ragione a trarre questa conclusione, in fondo so pure perché. Il istinto mi diceva non fidarti più di loro, pensa solo al tuo lavoro che il resto viene da sé. Ora so che il mio istinto c'ha ragione a trarre questa conclusione, in fondo so pure perché. Io parassiti non ne voglio più, perché da me vogliono solo il male. Già con limpidezza come il cielo blu, come la mia crew, il resto poco vale. Vedo facce e sorrisi di crisi, di pizzi che vogliono divisione. Credo che sono contusi di Dio, che vogliono solo la compassione. Ma dov'è la comunicazione se poi non ti metti in connessione? Già, io seguo l'istinto, ne sono convinto di chi vuole corruzione. Sa che vuole fregarmi, darmi del pazzo, togliermi tutto pure di mezzo. Vuole schedarmi oppure levarmi o farmi fare il morso, farmi contratti su della carta che però vale meno di marca. Aprire la porta rivolta ad un podio fatto di odio e sterco. Seguo l'istinto, mi dica il vero, più delle volte sincero. Ma cerco la prova che muove il pensiero e che mi dica il bianco e il nero. Io mi fidavo, quindi aiutavo, ma diventavo uno schiavo. Se mi piegavo non mi spezzavo, ma sentivo solo che la mia fiducia stava scemando, un taglio che brucia stava tagliando, che si pronuncia con tradimento verso di me. Il